Leporello è un progetto di musica, costruzione di canzoni, di testi e incontro con la musica, musicoterapia per certi aspetti, che è iniziato grazie alla Fondazione Orchestra Mozart nel 2005 e che ha portato all'interno del carcere minorile la musica e la possibilità di incontrare i ragazzi con questo strumento, di ascoltare i ragazzi con questo strumento che è la musica. Questo è sostanzialmente il progetto Leporello, che si è nel corso degli anni sviluppato fino a portare alla produzione di 3 CD che sono frutto anche della creazione di nuove musiche da parte dei ragazzi e di testi elaborati insieme ai terapeuti. Quindi è un incontro con la musica che si prende cura di loro e che offre la possibilità di esprimersi. E quanti ragazzi sono stati coinvolti? Sono stati coinvolti per la durata di 3 anni un gruppo di 6-8 ragazzi che nel corso del tempo sono cambiati, quindi il gruppo si è mantenuto sempre di questo numero. La durata del laboratorio è stata di 2 ore una volta alla settimana e quindi ha coinvolto molti ragazzi, perché pochi ragazzi hanno pene così lunghe, quindi nel corso del tempo si sono scambiati, diciamo, il posto con diversi ragazzi. E ha parlato della cura che la musica si prende in generale, in particolare nell'ambito del carcere minorile, e volevo chiederle se il concetto del prendersi cura in quel contesto è diffuso in Italia o questa è semplicemente una bella eccezione ma non è così radicato. In tutte le carceri minorili che sono presenti in Italia è molto chiara la mission dell'istituzione, che è quella di consentire di fare dei percorsi educativi. Ogni istituto ha una sua progettualità, quindi non posso parlare di quella degli altri, ma sono certa che c'è e che in alcuni casi sono anche esperienze abbastanza visibili, insomma, ma tanto lavoro c'è e che rimane invisibile. Quindi questo qui all'interno dell'istituzione carceraria di Bologna è un lavoro che si affianca ad altri che hanno visibilità, come per esempio il progetto di teatro che ogni anno da 18 anni accompagna lì questo istituto, con anche un'espressione di laboratorio teatrale. Questo del progetto Leporello è un altro laboratorio molto bello, molto importante, che ha una grande visibilità. Devo dire però che appunto ci sono molti laboratori e molte piccole azioni quotidiane che non hanno la stessa visibilità, ma sono ugualmente molto importanti, perché la giornata per un ragazzo dura quanto le nostre, cioè 24 ore, e per loro valgono molto di più, perché lo scorrere del tempo è faticoso in carcere, quindi bisogna avere l'abilità di riempire con contenuti importanti almeno 8 ore al giorno. E quindi questo è sicuramente un progetto che ha consentito proprio a molti ragazzi una evoluzione nel loro percorso educativo.